piacere, romanzo e le storie vorrò, di un'impresa eroica sarò il protagonista, leggenda, ricco di ogni ruolo che avrò. È così che il coraggio darò, il mio cuore, la passione vivrò e godrò. Successo, fiori, una fiamma a cavallo, romanzo perfetto, il filo più scelto, più di ricco povero, sono qui. Ricchezza è il nero perché si nasconde in fondo al pensiero, spingo oltre la vita e il mio sé, ma mi importa poco perché questa vita è breve, un sentier, voglio mai goderla e ser fier, povertà dell'uomo non c'è, vuoi avere tutto per me. È così che il coraggio darò, vivrò e godere.